Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Martedì 16 marzo, buongiorno e bentornati a tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere a Liberi Dentro e Duradio, ora in onda su Radio Città Fujiko e alle 10.30 su Teletricolore. Do il buongiorno ai miei ospiti di questa settimana, abbiamo sempre Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno, ahlan wa sahlan wa salam alaikum a tutte e a tutti. E al nostro Paolo Aleotti che ci accompagna tutta la settimana con la sua esperienza da bollate. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Non so come si dica in ticinese, visto che sono in Ticino, ma insomma domani cercherò di saperlo. Grazie. Buongiorno. Parto sempre con la cronaca bianca, oggi con una notizia un po' particolare, un po' per staccare da questa pesantezza anche forse delle notizie legate al carcere. E la notizia si intitola «Praticare yoga in carcere educa e contribuisce al recupero dei detenuti». La prendo da pianetacarcere.it e perché da uno studio emerge che fare yoga sia uno strumento ideale per la riabilitazione fisica e mentale dei detenuti. Questa disciplina è in grado di migliorare l'umore e lo stato di salute mentale in cella, ridurre la propensione a comportamenti aggressivi e far calare il tasso di recidiva, quindi tante cose che non dico io, ma sono emerse da alcune ricerche. Per esempio, secondo i dati del Ministero della Salute, il 40% dei reclusi soffre di disturbi psichici. E anche da una ricerca della Oxford University, rilanciata dalla BBC, dice che sessioni prolungate di yoga aiutano a migliorare lo stato di salute mentale, alleviando i livelli di ansia e depressione e portare anche al calo della recidiva. Quindi anche una ricerca, tra l'altro del Washington State University, pubblicato su Science Daily, dice che praticare yoga in carcere aiuta i detenuti nel creare relazioni più sane e anche con i compagni di cella, quindi questo è fondamentale. Quindi un po' per riassumervele, sono un po' 10 i benefici dello yoga. Ridurre la propensione a comportamenti aggressivi e antisociali, alleviare i livelli di ansia e depressione, favorire lo sviluppo di autodisciplina, quindi autodisciplinarsi, essere più puliti, aiutare a essere meno impulsivi e avere anche sensazioni di autostima maggiori, portare i detenuti a essere meno inclini all'abuso di sostanze stupefacenti, aiutare a dormire meglio e far calare il tasso di recidiva, ma e anche favorire ovviamente la socializzazione e potenziare la consapevolezza di sé. Ma sono tutte cose che non valgono solo per chi ci ascolta da dentro, ma anche e soprattutto per chi ci ascolta anche da fuori, perché lo yoga lo fanno tutti, tutti ne abbiamo bisogno e più che altro tutti abbiamo bisogno di stare in pace con gli altri per migliorare le nostre relazioni sociali e con noi stessi. Ma sempre a proposito di salute, Ignazio, io do la parola a te, perché dalla Tunisia si parla di diritto alla salute, no? Sì, il tema di oggi, la notizia che vi porto, viene dalla Press, un articolo di Maryam Hamidullah della fine di febbraio, una giornata dedicata al tema delle malattie rare. Malattie rare le chiamano anche le malattie orfane, perché non hanno né padre né madre e non se ne occupa nessuno, perché sono classificate come rare quelle che colpiscono una persona ogni 2000, cioè il 0,2% della popolazione. Quindi uno può dire, se la prendono in pochi, non è come il Covid, se la prendono tutti, allora c'è l'attenzione per tutti, è anche ossessiva ovviamente, però c'è un'attenzione. Questi qua sono pochi, quindi non importa. Però esistono questi malati e questo articolo riporta delle testimonianze molto toccanti, magari padre e figlio, affetti dalla stessa malattia rara e che trovano così fatica a trovare aiuto, assistenza, la ricerca fatta su di loro. E allora questo mi fa pensare, perché questa settimana dedichiamo il Galateo arabo alle parole delle Costituzioni, vedremo tra poco la Costituzione del Marocco, quel bellissimo articolo della Costituzione italiana che dice: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Cioè non è solo un diritto della persona, ma è anche la collettività a interesse che tu stai bene. E quindi anche nel caso di una malattia rara e anche per esempio nel caso delle persone detenute, qua si potrebbe dire tante cose, ma sappiamo che c'è la Agnese Drusiani che sta seguendo tutta questa tematica. Ecco, quindi se posso agganciare il brano di oggi. Il brano è ancora Danila Bensazzi, quindi dalla Libia, una berbera libica, è diventata una bandiera della primavera araba, che è stata poi tragica in Libia. Comunque è stato un movimento di popolo reale per i diritti della minoranza berbera, che canta Tidet. Bentornati, rieccoci sulle note di Dania Bensassi, Tidet, la nostra musica berbera che ci accompagna tutta la settimana di Liberi Dentro. Ignazio, stiamo parlando sempre di Galateo Arabo, questa volta legato alle costituzioni, stiamo parlando della Costituzione del Marocco, ieri abbiamo parlato del diritto di uguaglianza tra uomo e donna, oggi invece di libertà di pensiero, un articolo meraviglioso. Il 25, e dobbiamo ricordare che la primavera araba, io l'ho vissuta perché ero prima a Damasco, poi al Cairo, quindi so che è stata una cosa vera, tradita, ma è stata. Una delle cose era la libertà di pensiero, poter dire le cose, perché una delle cose della dittatura è che non quella cosa non la puoi dire. Allora sentite che bello l'articolo 25 della Costituzione del Marocco. Hurriyatul fikr wa ra'i wa ta'bir makfula bi kulli ashkalihi, cioè la libertà di pensiero, di opinione, arrai, e watabir, di espressione, perché uno dice puoi pensare, però non lo puoi dire, no caro, se penso lo posso dire, no? E makfula, è assicurata in ogni forma, biashkalia, sulla televisione, sulla radio, sui giornali, sull'internet, non devo colpire le altre persone, non devo ledere il diritto degli altri, ma ho diritto di esprimere il mio pensiero. Grazie Ignazio, e ora do sempre la parola al nostro ospite, Paolo Aleotti. E tu Paolo stai scrivendo un libro sulla tua esperienza al carcere di Bollate, Teleradio Reporter, e vorrei ricordare anche a tutti i nostri ascoltatori che Bollate è un carcere particolare dove da anni, alcuni anni, dal 2000 viene avviato un metodo che ha proposto la ex direttrice Lucia Castellano, che consiste soprattutto nel concentrarsi sulla risocializzazione dei detenuti e non tanto sulla punizione. Un metodo che ha portato a un successo strepitoso, ovvero il fatto che la recidiva si sia abbassata dal purtroppo 70% che abbiamo in quasi tutte le 200 case circondariali della nostra nazione a un 17% a Bollate invece. Quindi se ci racconti un po' cosa stai scrivendo e cosa ti sta venendo in mente. Sì, beh, il libro, diciamo, è un capitolo, chi scrive sa che per me almeno il libro è sempre un parto, e quindi è veramente, e in questo caso ancora di più, ho tante cose da scrivere, e contemporaneamente, avendo fatto il giornalista per tutta una vita e facendo adesso un mestiere un po' diverso dentro il carcere di Bollate, Faccio il volontario di fatto, tentando di aiutare molte persone che hanno sbagliato, che sono in carcere, a rendere quel periodo non un periodo di punizione e basta, ma di possibile riscrittura della propria biografia, di possibile reintegro nella società. E nel far questo entro in confidenza con molte persone. E però nello scrivere le cose che mi confidano ho tante resistenze, e quindi al momento la via d'uscita è quella di passare attraverso di me, perché se passo solo attraverso di loro sento come di tradirli. Comunque il libro è ancora è in fieri, sta accadendo, quando ci sarà, vediamo se ci sarò riuscito. Le cose che ho imparato lì in quel carcere, per esempio, sono per tanti è un modo di rifugiarsi in fondo a una cella, per tanti invece, soprattutto gli abbollati, dove c'è la possibilità di fare delle cose alternative, c'è anche la possibilità di creare dentro di sé una forza di resilienza, di resistenza. E loro mi dicevano: se uno riesce a resistere a quello che succede qua dentro, scopre che è fortissimo, e se scopre che è fortissimo, può crearsi delle nuove possibilità. Citerei solo, se faccio in tempo, il caso di Antonio, che ha fatto il teleradio reporter con me, si è imparato a montare, a fare l'editor di radio, di televisione. Uscito dal carcere, è stato assunto presso anche il comune di Milano in una cooperativa per fare quel lavoro lì, che è una cosa che trovo spettacolare. Quando ero negli Stati Uniti, non lo dico per fare quello importante, ma avevo 5-6 milioni di telespettatori quando facevo il TG1. La soddisfazione che mi dà l'idea di Antonio è veramente un'altra cosa. È veramente, come dire, aver contribuito nel minimo, nel piccolissimo, che uno può contribuire a ricominciare, a non dare per scontato che ci sarà quella porta girevole per cui, come esci dal carcere, poi ci devi rientrare perché ricadi sempre nelle stesse cose. Questo mi ha insegnato molto Bollate, francamente. E che pezzo potremmo lanciare? Allora, il pezzo che ho pensato per oggi, un pezzo anche questo famosissimo, non voglio proporre solo pezzi famosi, però Jailhouse Rock, che è un pezzo di Elvis Presley, molto famoso, c'è anche un film che con la stessa cosa, è diventato anche questo un manifesto di quanto avviene nelle carceri, tanto che oggi Jailhouse Rock è la sigla, è il nome di tanti programmi, tra i quali proprio quello che Antigone fa ogni lunedì sera su Radio Popolare, che trasmette il giornale radio del carcere che viene da Bollate e anche da altri due o tre carceri italiani, da Torino e da un terzo, non mi ricordo, comunque insomma. Quindi ecco, direi Jailhouse Rock di Elvis Presley. Grazie Paolo, e con i nostri ospiti ci rivediamo domani, però seguitemi ancora dopo con l'ospite della seconda parte di Eduradio. Bentornati su Liberi Dentro, la nostra ospite oggi già stata con noi, bentornata Antonella De Francesco, eccoti. Ben ritrovati, buongiorno a tutti, mi fa piacere essere di nuovo qua con voi. Per questa nostra rubrica Alimentazione e Salute in carcere e in città, ecco, diciamo, per tutti. Tu sei appunto specialista in scienze dell'alimentazione e nella prima pillola abbiamo fatta con te, abbiamo cercato un pochino di mettere gli obiettivi di questa nostra chiacchierata, che sono proprio quelli di avere un'autoconsapevolezza, ecco, nelle nostre scelte, soprattutto alimentari. Quindi abbiamo detto che non esiste un vero e proprio diritto al cibo, però all'articolo 9 dell'ordinamento penitenziario viene stabilito espressamente che ogni detenuto o detenuta ha diritto a un'alimentazione sana, ed è per questo che all'interno del carcere viene dato il pasto 3 volte al giorno o attraverso una dispensa che porta i cibi dall'esterno, oppure in alcuni carceri c'è anche una cucina centrale. Però anche per chi può, fra i detenuti, c'è la possibilità di acquistarsi gli alimenti e cucinare da solo quello che sceglie. E quindi allora, andando proprio a questo punto, il fatto di cucinarsi da solo o da sola i propri alimenti, quali sono i tipi di cucinazione più adatti per chi vuole mantenere uno stile di vita sano? Allora, innanzitutto, certamente... acquistare alimenti naturali e quindi non alimenti già pronti. Tutti gli alimenti precotti o gli alimenti in scatola sono sempre arricchiti con sostanze che hanno lo scopo di conservare l'alimento e che spesso sono sostanze o zuccherine o conservanti e quindi che bisogna cercare di limitare al massimo nella nostra alimentazione. Quindi acquistare alimenti naturali, frutta, verdura, latte, derivati del latte, carni, e non alimenti già pronti. Quindi in realtà cucinare in casa o in carcere, se questo è possibile, mi pare che sia possibile, partendo dagli alimenti naturali e quindi cercare di scegliere una cucina, delle forme di cucinazione assolutamente semplici. Il grasso più indicato nelle cotture è certamente l'olio, e quindi limitare invece i grassi animali, lardo, lo strutto, il burro, e scegliere delle cucinazioni che non richiedano l'uso di molti grassi, per esempio la cottura al vapore o la cottura al forno, o la cottura alla piastra, alla griglia, cercando ovviamente di non carbonizzare l'alimento, o la cottura anche semplicemente bollita, tenendo conto che sia i vegetali che le carni, comunque bollendo nell'acqua, perdono un po' di minerali e un po' di vitamine. Le cotture che permettono di mantenere tutti i componenti nutrizionali di un alimento sono proprio quelle che ho detto, quella al forno, quella al cartoccio, quella al vapore. Ovviamente la frittura piace, è molto buona, però la frittura è un tipo di cottura che aggiunge molte calorie all'alimento che noi mangiamo. Il grasso viene ad essere assorbito e quindi rende l'alimento più calorico, e diciamo è il tipo di cottura meno indicato. Grazie Antonella, e naturalmente volevo chiederti, questo significa che gli alimenti, per garantire questo tipo di cottura che ci permette di mantenerci anche in salute e non quindi comprare gli alimenti preconfezionati, dobbiamo comprare sempre alimenti freschi. Certo, il più possibile, oppure anche alimenti essiccati, per esempio i legumi, anche se non sono freschi, sono un alimento assolutamente indicato, e poi anche il pane, la pasta, il riso, i cereali, ecco, possono essere benissimo utilizzati, cotti e conditi con sughi semplici, utilizzare molto le erbe aromatiche, queste sono molto indicate, cioè insaporire gli alimenti con condimenti che non siano grassi, che non siano lipidici, ma aromatici. Ed è il momento di lanciare un brano musicale, io come sempre lo chiedo all'ospite. Sei Riccardo. Sì, di Giorgio Gaber. Giorgio Gaber. Ascoltiamolo. Che noi anche al bar, che noi alla sera, la sera a mettersi qui al bar. Che noi anche al bar. come entro, ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità, l'infelicità. Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi più al bar. Che noia qui al bar. Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera, non c'è salti vin qui ogni sera, se ci paro non risponderà. E rieccoci, bentornati su Liberi Dentro, siamo sempre con Antonella De Francesco e stiamo facendo questo approfondimento su alimentazione e salute. E siccome stiamo parlando di tipi di cotture e quindi anche di acquisto di alimenti sani e freschi, che non è, però devo dirlo, non è sempre possibile ottenerli, soprattutto quando si è in carcere, soprattutto faccio riferimento alle verdure, non è così semplice averle fresche, per quello che ti ho chiesto di chiarire anche magari alcuni alimenti che, sebbene confezionati, possano essere sani lo stesso. Sì, anche le verdure in scatola possono essere sane. Bisogna un po' prendere l'abitudine di leggere l'etichetta, di guardare il contenuto di zuccheri e di grassi che ci sono in una conserva. Ci sono delle conserve che sono abbastanza, diciamo, poco ricche, sia di conservanti, sia di coloranti, sia di grasso che di zucchero. E anche le marmellate stesse hanno contenuti molto vari di zucchero. Quindi imparare a scegliere quelli che hanno il contenuto minore. Perfetto, quindi imparare a leggere le etichette e anche imparare a fare degli acquisti che ci permettano di non avere un impatto ambientale, perché sappiamo che comunque comprare significa sprecare in qualche modo, quindi come cercare di non sprecare così tanto? Questo è estremamente importante, in quanto la crescita della popolazione umana sul pianeta Terra è veramente enorme, e quindi si pensa che nel 2050 arriveremo ad essere 10 miliardi, no? E adesso siamo già forse 6 miliardi, quindi siamo enormemente cresciuti, occupiamo spazio. E avevo già accennato la volta scorsa, c'è quella che si chiama l'impronta ecologica che noi diamo al pianeta, e cioè la quantità di territorio, considerando per territorio sia le terre che le acque, che noi utilizziamo sia per ricavare i nostri alimenti, quindi coltivarli, pescarli, eccetera, eccetera, e poi sia per eliminare i rifiuti. Quindi è estremamente importante essere corretti nell'eliminazione dei rifiuti, e per esempio adesso si sta facendo molta ricerca su quelle che sono le plastiche biodegradabili, perché abbiamo visto che cosa è successo sul pianeta in pochissimi anni, si sono formate le isole di plastica addirittura. E certamente cercare di essere un po' più vegetariani e meno carnivori, perché ciò che consuma più territorio è l'allevamento, soprattutto l'allevamento dei grandi animali, e cioè i bovini essenzialmente. Certamente le capre, le pecore consumano meno territorio, hanno un'impronta ecologica decisamente minore, quindi certi stili alimentari, compresi il vegetarianismo, nascono in realtà da un'esigenza che è reale. Grazie, magari lo spunto per la prossima volta, alcuni consigli per quante volte mangiare carne durante la settimana e avere un po' una rotazione durante la settimana dei cibi, ci torneremo. E allora adesso io lancio di Dean Martin, That's Amore, anche per avere un po' di amore verso il pianeta in cui viviamo. Grazie mille e alla prossima. Grazie a te, arrivederci. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.